Radio 24 Reportage. Sportivi dentro di Dario Ricci. Io non capisco perché non si può fare una squadra solo dell'Italia. No, voi italiani giocate o nella squadra dell'Europa A o nella squadra dell'Europa B, per cortesia. Non mi scardinate questa griglia che ci ho lavorato tutta la notte. Propenderei addirittura per partite di andata e ritorno. No, andata e ritorno no, moriamo. Nanni Moretti nel suo Habemus Papam, la pallavolo è riuscita a portarla addirittura dentro al conclave per l'elezione del pontefice. Non sorprenda allora se qualcuno il volley l'ha portato tra le mura del carcere milanese di Opera. Sono pronte le squadre, partiamo con la prima partita del quadrangolare tra Volley Sound e poi e Visitor Savone. La palestra è quella del carcere, appunto, soffitti bassi, ma la rete c'è e il parquet mette al riparo dalle sbucciature alle ginocchia. Tanto basta per giocare a pallavolo. In campo gli sportivi dentro e il doppio senso è tutto voluto, perché a sfidarsi in un quadrangolare sono due squadre esterne e due formate dai detenuti di Opera. Un progetto nato in collaborazione con Edison, Francesca Magliulo, responsabile dei progetti sociali dell'azienda. Questo progetto nasce nell'ambito di un'altra serie di progetti sociali che abbiamo e che declinano praticamente il nostro impegno nello sport a livello nazionale con il volley, il basket, il rugby a livello sociale, cioè lo sport con i suoi messaggi di positivi, spirito di squadra, di rispetto delle regole, aiutano chiaramente persone che hanno, come dire, mal indirizzato la loro energia, perché l'aggressività poi non è altro che energia mal indirizzata in energia positiva, e aiutano molto. Non abbiamo certo l'ambizione di rieducare i detenuti, ma sicuramente un contributo credo che questi progetti riescano a darlo. Anche al carcere minorile del Beccaria siamo attivi con un progetto sul rugby per i ragazzi, già da 3 anni alcuni ragazzi si sono tesserati, vanno a giocare al club, quindi siamo molto soddisfatti. Sono progetti complessi, difficili, ma poi molto gratificanti veramente. Perché questo esperimento proprio a Opera? A Opera perché per una serie di, come dire, di coincidenze, di disponibilità, la dirigenza del carcere di Opera si è dimostrata molto disponibile, e in realtà questo progetto l'abbiamo sviluppato insieme a loro e alla coordinatrice Marina Signorelli, e cercando di capire prima di tutto quanti detenuti erano interessati al basket o al volley, perché noi abbiamo pensato appunto a tutti e due gli sport, alla fine hanno deciso per il volley. Abbiamo provato, sperimentato il primo anno con il volley, ma vogliamo assolutamente allargare anche al basket e magari chissà al rugby in futuro. E perché proprio il volley? Ce lo spiega un insegnante d'eccezione, il coach della nazionale azzurra, Mauro Berruto. La pallavolo è davvero l'unico sport dove il passaggio è obbligatorio da regolamento, no? E vedere questi ragazzi, al di là delle qualità tecniche naturalmente che non sono l'oggetto del programma, del progetto, ma vedere la volontà di passarsi la palla che si vede chiaramente, quindi è stato loro ben insegnato dai loro allenatori, è una cosa che apre anche un po' il cuore, no? Perché credo che in generale finché c'è la volontà di fare un passaggio o di riceverlo c'è una speranza, quindi vedere questi ragazzi interpretare le regole del gioco da pallavolo così come stavano facendo è veramente splendido. Per la maglia azzurra gli sportivi dentro dovranno ripassare la lezione e il coach è pronto a dare una mano. Beh, sono stato poco fa a vedere un set di questi ragazzi, ho detto loro che avevo una brutta notizia, cioè che nessuno di loro è convocabile per la maglia azzurra, però al di là delle battute l'atmosfera che c'era era da nazionale, questo sì. La percezione della volontà, del piacere, del modo di fare quello che stanno facendo, grazie ovviamente a quello che i loro allenatori stanno mettendo in piedi, è da nazionale, è da giochi olimpici. Io oggi ho assistito e poi li ho sfidati dicendo che se mi invitano io quest'inverno, che sarò libero, tanto non avrò un club da allenare, vengo una volta, però voglio allenare, cioè voglio fare il mio lavoro, non voglio fare l'arbitro come oggi. In palestra adesso è ora di giocarselo questo quadrangolare, ma è come stavolta, il risultato non conta. Conta esserci, con la testa e con il cuore. Vito, detenuto a Opera, sotto rete ha ritrovato un pizzico della sua libertà. È un po' difficile da spiegare perché sono tante emozioni che si accavallano l'una all'altra. Ma la prima principale è il senso di evasione, cioè dal contesto. Poi per quello che uno possa apprendere è socializzare, essere tolleranti, imparare a essere tolleranti con un compagno magari che sbaglia. Non avevo l'esperienza di quello che si prova a giocare con una squadra, diciamo soffrire negli allenamenti per gli errori assieme, è tutto quello che ne concerne, anche vincere. Marina Signorelli, dei detenuti di Opera, è educatrice e allenatrice. Quattro squadre nella palestra del carcere. Marina non crede ai suoi occhi. Un grandissimo sogno che si realizza. Primo quadrangolare all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, per la prima volta ufficializzato, quindi con due squadre esterne che entrano a giocare con i nostri detenuti atleti, e per la prima volta siamo arrivati a finalizzare questo sogno, un obiettivo per noi grandissimo. Del resto, a questi piccoli grandi miracoli dello sport, Marina non è nuova. A San Vittore nel 2000-2001 ho fatto il primo progetto di una polisportiva all'interno di un carcere, che è stata una cosa grandiosa, perché in quel caso ogni raggio era coinvolto in un'attività sportiva in verticale. Mentre qua inizialmente stiamo partendo in punta dei piedi, là siamo riusciti a fare un lavoro che dava spazio a tutti i raggi, essendo un carcere, una casa circondariale di raggi, qua invece siamo in una massima sicurezza con i reparti. Storie, speranze, errori, vite si intrecciano sotto rete. Fra poco qualcuno proverà a ricominciare, là fuori, oltre quelle mura, magari anche con un pallone da volley in mano. Uno dei miei ragazzi mi ha detto che, dato che uscirà a breve, vorrebbe poter allenare i piccolini, cioè i bambini dell'età primaria, della scuola del primo ciclo, del secondo ciclo della scuola elementare, per quanto riguarda il mini volley. E questo per me è il raggiungimento di un sogno, ma non c'è denaro che paghi questa frase detta da un detenuto, nel quale io credo. Al di là della rete, eccolo, Vincenzo. È lui che ha confessato in una lettera a Marina il piccolo grande sogno di allenare i bambini, una volta uscito di qui. Oggi è fuori gioco per un ginocchio malandato. Gli occhi volano lontano. Immaginano già cosa sarà domani, oltre quella rete, oltre quel muro. Ancora un attimino mi manca. Mi piacerebbe allenare i ragazzi, visto che io giocare sarà complicato, però poter portare ai ragazzi quello che ho imparato io nel corso degli anni. Anche qui a Opera, sì. Servire anche quello. Per Vito invece il futuro è ancora dietro le sbarre. La speranza è che il ricordo di un pomeriggio di sport aiuti a far scorrere un tempo che, anche sotto rete, sembra infinito. Diciamo che fra una ventina d'anni sarò fuori. E cosa mi porterò? Di questo è un bellissimo ricordo. Se succederà che nel corso del tempo ci saranno altre esperienze del genere, allora mi porterò un gran bagaglio culturale dietro. Perché molte volte è una cosa che si va a scemare col tempo, anche una bella esperienza del genere, vedendo davanti un così tanto tempo. Però un bel ricordo sicuramente mi porterò dietro. Domenica alle 13 e alle 20.30 due appuntamenti speciali con i reportage di Radio 24, candidati al 63° Prix Italia.